La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori, 16.30, primi 30 secondi. Oscar Giannino vi saluta in diretta qui agli studi di Milano di Radio 24. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporvi temi, trasmissioni, critiche, domande, qualunque cosa. Vi dice subito che ovviamente i microfoni sono aperti oggi, come è ovvio direi, per sentire da voi all'800240024, per le opinioni 349-238-6666 sugli sms. Cosa pensate, in sintesi, del significato di questa tornata delle elezioni nei 1300 comuni in cui si è votato, a cominciare dalle grandi città? Abbiamo due ospiti con cui, dal loro punto di vista, capire innanzitutto Roma e Torino, ma anche il significato nazionale. Io dico in poche parole, in soli tre punti, perché mi pare che, a mio modestissimo giudizio, pur essendo stato in questa settimana con tutt'altro per la testa, perché mi è nata un secondo figlio, una secondogenita, una figlia sabato, e quindi viva e grazie alla mamma Margherita, però detto tutto questo, naturalmente ho compiuto anch'io il mio dovere civile, nel senso che sono andato a votare qua a Milano, ma penso che il voto complessivo, ora che ne possiamo apprezzare tutti i particolari dopo la maratona notturna, dal mio punto di vista testimonia che gli italiani sono saggi, molto più saggi di chi li dipinge come in preda a deliri di pancia, emotivi, irrazionali. E dico perché in tre brevissimi punti, che riguardano: uno, il centrosinistra; il secondo riguarda il centrodestra; e il terzo, il Movimento 5 Stelle. E il combinato risposto di queste tre cose, a mio giudizio, è un messaggio di saggezza da parte dell'elettorato italiano. Innanzitutto, l'elettorato italiano è andato a votare. Sì, c'è stata una diminuzione delle percentuali di partecipazioni, ma non questo crollo che si immaginava, perdonate. Secondo, per quello che riguarda il centrosinistra, è un fatto che la campagna che era partita da parte del governo per tentare di sminuire ai minimi termini il significato della tornata amministrativa, secondo me non ha funzionato, parlando del referendum. Il Presidente del Consiglio, secondo me, è stato onesto a fine mattinata in conferenza stampa oggi, dichiarando che il come segretario del PD non è soddisfatto. Ricordo che solo pochi giorni prima del voto aveva detto che dopo 20 giorni di questa tornata alle comunali nessuno si sarebbe ricordato. Beh, secondo me è stato imprudente, non è così. Quanto poi a il significato, per così dire, io distingo, ci sono i candidati direttamente renziani. Beh, vedremo Sala se vincerà a Milano. Sta di fatto che Parisi in due mesi lo ha acchiappato praticamente con un 1% di voto in meno, e vedremo se l'indicato da Renzi a Milano vincerà oppure meno. A Roma, come dice, secondo me, il premier Giachetti, ha fatto un mezzo miracolo, viste le condizioni iniziali di uscita del disastro con la giunta Marina e con la responsabilità del PD, come quelle di Alemanno a destra, ma ultime poi quelle del PD, è vero, ma comunque sia la perdita di voti è ovvio che sia clamorosa. E questi sono i candidati più direttamente espressione di Renzi. Sull'usato sicuro, sia a Torino che a Milano, cioè perdonate, sia a Torino che a Bologna, la perdita di voti è molto forte, di Fassino e di Merola, e quindi anche in questo caso c'è qualche cosa su cui riflettere. A vincere sono, o a ottenere grandi risultati, penso a Salerno, dove si tratta di una vittoria di De Luca, dell'uomo di De Luca, o a Cagliari, la vittoria di Zedda al primo turno, beh, non sono propriamente candidati renziani, per così dire. Quindi, secondo me, nel centrosinistra c'è un messaggio che l'elettorato dà al segretario e al premier. Vedremo come verrà elaborato. Nel centrodestra c'è un altro messaggio molto chiaro, in realtà. Dove il centrodestra si è sfasciato e diviso, vedete Torino, vedete Roma e così via, il risultato parla chiaro. Milano è una soluzione praticamente che non ha quasi uguali in Italia, di unione e soprattutto di un candidato che non è l'espressione diretta di nessuno dei partiti del centrodestra, né di Forza Italia, né di Berlusconi, né di Fratelli d'Italia, né della Lega, e che ha saputo distinguersi molto nettamente nei due mesi di lavoro che ha fatto. Beh, insomma, indica una prospettiva. Altrove, dove sono divisi e azzuffantisi per ragioni varie e diverse, il risultato è quello anche di azzoppare un risultato comunque molto significativo come quello a Roma raggiunto dalla Giorgia Meloni da sola. Non è andata in ballottaggio, ma insomma un exploit per essere da sola. E Marchini, che ha abbracciato Berlusconi, beh, è stato il bacio che l'ha portato a fondo, metà dei voti rispetto ai sondaggi, quelli che gli attribuivano mesi e mesi fa. Quanto ai 5 Stelle, è innegabile, a mio giudizio, che il risultato in città come Roma E come Torino, oltre a Roma, Roma davano tutti per scontato, ma il risultato dell'Appennino a Torino è un risultato che dà il segno, non a caso anche sui giornali internazionali, di questa tornata amministrativa. Secondo me è carica di aspettative. Vedremo al secondo turno come va la battaglia dell'Appennino in risalita su Fassino e la battaglia invece come più favorita di Virginia Raggi a Roma, ma sono senza dubbio grandi banchi di prova anche per la politica nazionale, dovendosi, soprattutto Roma, visto il disastro di Roma. E quindi da questo punto di vista io capisco che molti aggiungano dalla parte delle altre forze politiche: ah, ma in realtà i 5 Stelle si sono riusciti a candidarsi solo in poco più di 250 comuni su 1300, verissimo. Altrove non vanno altrettanto bene, verissimo. Vedi Milano, quello che volete voi, però insomma è un significato chiaro. Non c'è il vecchio bipolarismo, perché la destra è divisa e spaccata, c'è un sistema politico diverso, questo implica tante e tante cose sulla prossima legge elettorale. Come... il problema è capire che cosa succederà al secondo turno, ma a me sembra complessivamente un voto di saggezza. Poi mi sbaglierò io, non mi pare che sia il caso di trionfare, come dico, come fanno alcuni leader di partito in maniera unilaterale, perché c'è un messaggio complesso da parte dell'elettorato italiano. Per capire però dal loro punto di vista che cosa è successo innanzitutto a Roma e a Torino, ma qual è il significato nazionale di questa tornata elettorale, abbiamo con noi innanzitutto Mario Aiello, giornalista del Messaggero, che abbiamo ospitato la settimana scorsa perché è autore del libro Disastro Capitale, Roma al bivio, che secondo me vale la pena di leggere anche il giorno dopo le elezioni, perché descrive i problemi con cui si dovrà confrontare comunque il prossimo sindaco che sceglieranno i romani tra 2 settimane. Grazie di essere con noi, Mario. Grazie a voi, buon pomeriggio. E Riccardo Ruggeri, imprenditore, consulente, ex manager Fiat, sapete di lui se mi seguite da anni la sua storia, un operaio Fiat entrato nel comitato strategico dell'azienda salendo pezzo dopo pezzo, critico instancabile per chi lo segue su Italia Oggi ogni giorno di questi anni del ceocapitalismo, come lo chiama lui, cioè degli eccessi pazzeschi dei capi azienda del modello anglosassone che hanno invaso tutto il mondo, ma soprattutto torinese innanzitutto nel midolla. Grazie di essere con noi, Riccardo Ruggeri. Grazie a te e felicitazioni alla bambina. Grazie infinite, Riccardo. Allora, possiamo cominciare da Torino. Il voto dell'Appennino, che molti si aspettavano, sì, incalzare Fassino, ma quasi parecchi credevano che Fassino poteva vincere al primo turno. Ti ha sorpreso? Se sì, perché? No, non mi ha sorpreso soprattutto perché ritengo che Torino, e tu lo sai, è una città che è una città laboratorio. È una città laboratorio, io sono convinto, come tu hai citato le mie teorie, che siamo in un cambio di paradigma. E Torino la rappresenta in modo perfetto. Cioè, se noi ci stiamo avviando verso un sistema culturalmente bipolare, fatto da una parte dal partito della nazione che sta nascendo in tutte le parti del mondo e anche in Italia, e dall'altra parte gli antisistemi. Come sai, sono appena tornato dagli Stati Uniti, studio da un bel po' di tempo le primarie americane perché ritengo che siano estremamente significative. A Torino questo c'è già, il partito della nazione. Dove negli Torino, Stati Uniti, siccome ti seguo appunto, però diciamo agli ascoltatori, gli antisistemi spiegano da una parte il fenomeno Trump da una parte e il fenomeno Sanders dall'altra. Sì, io direi Hillary da una parte, Trump e Sanders dall'altra. Esatto. Allora, qui a Torino noi abbiamo il partito della nazione dal 68, era molto sciccoso perché era fatto dal PCI e dall'avvocato Agnelli, poi si è via via un po' degradato, ma comunque è rimasto ancora con Chiamparino / Fassino e Marchionne. Oggi siamo arrivati a un momento di svolta, perché il successo dell'Appennino a Torino è totalmente fuori di tutti gli schemi ed è quindi secondo me molto significativo, perché quello di Roma nasce da Roma capitale, certo. Quello di Torino nasce da un processo intellettuale. E questo processo intellettuale secondo te può arrivare anche al punto nel ballottaggio da portare la spallata decisiva al vecchio sistema di tutti i poteri uniti? Ma mi ha molto colpito che mesi fa Ghigo, per esempio, ex presidente regionale del centrodestra, dicesse: no, Fassino è l'unica cosa che ti dà pienamente ragione, c'è cioè un allineamento di poteri, tutti su un candidato. Certo, ma no, dunque credo che andrà a finire. Io penso che da questo momento, a partire già dal ballottaggio, il partito della nazione deve crearsi, e quindi a Torino si creerà attraverso i Berlusconis di più stretta osservanza che evidentemente se andranno a votare voteranno per Fassino, così come l'establishment che ha già votato per Fassino. Dall'altra parte... Un po' come, perdonami, anche qui per completare ai nostri ascoltatori, un po' come gira da questa mattina la voce, non è ancora confermata, però pare autorevole, che a Roma, per esempio, Marchini, cioè il candidato su cui ha confluito Berlusconi contro la Meloni, si appresti a dire votate per Giachetti. Sarebbe nella stessa linea di quello che tu dicevi tu per Torino. E cioè, secondo me sarebbe assolutamente logico, perché siamo a questo bivio che poi diventerà secondo me eclatante il 2 di ottobre al referendum. A Torino c'è in più questa cosa che proviamo tutti, credo che provi anche tu, che noi in fondo abbiamo avuto questa cappa di piombo che ci ha seguito da sempre, di questa perbenismo, io lo chiamerei perbenismo gramsciano valdese. No, il riferimento all'avvocato, e e questo è un qualche cosa che ci pesa molto a noi torinesi per bene. Però diciamo, tu non escludi la sorpresa, ma ne dai una lettura nazionale, come vedete. Sì, io vi do una lettura nazionale. La sorpresa potrebbe avvenire solo se il Lega e la parte, diciamo, Fratelli d'Italia, sì, Ariaudo lo do per scontato, sì, si orienteranno sull'Appennino. E questo è un grande tema di queste due settimane, capire come gli elettori, che naturalmente i cui candidati non sono andati in ballottaggio, nel caso di Torino i candidati sparsi del centrodestra, ovviamente Morano, Napoli e così via, adottano la logica di preferire il no al candidato PD eccetera eccetera, e a quel punto fanno la scelta di votare a Torino appunto per l'Appennino, oppure no, questo si vedrà, perché credo che gli ordini dei partiti non contino nulla, il problema è capire che cosa passa nella testa degli elettori. Fermiamoci un secondo con Riccardo Ruggeri, andiamo a Roma. Il significato, Mario, invece della scelta romana, la Virginia Raggi che fosse in testa nei sondaggi era scontato, quello che non era scontato è che Giachetti, partendo dal disastro iniziale che gli ha consegnato Renzi obbligandolo a candidarsi, riuscisse ad arrivare al ballottaggio. Quali sono gli elementi di sorpresa, e soprattutto, secondo te, lo stesso schema di cui parla Riccardo Ruggeri, nazionale ma a Torino, vale anche per Roma? Ma a Roma non credo che questo schema valga, perché Roma viene da una situazione molto più disperata, in cui non solo c'è stato il collasso dei partiti, ma anche il collasso della società civile, di un'idea di comunità. Veniamo appunto dal disastro capitale, e infatti il voto nelle periferie è la cosa che di gran lunga mi impressiona di più, perché noi eravamo abituati a considerare le periferie storiche come delle zone rosse, certo, insomma delle zone in cui la sinistra è sempre stata radicata, mentre le periferie estreme, per dirla così in sociologhese, ai quartieri a cavallo del raccordo anulare, sono sempre state delle, soprattutto negli ultimi anni, delle enclave della destra-destra. Il grillismo ha stravolto completamente questa geografia elettorale. Noi abbiamo quartieri come città come Cinecittà, dove il Movimento 5 Stelle è arrivato al 52%. Esattamente. No, quello che mi fa impressione anche a me è che in tutti i municipi di Roma non c'è la destra in un ballottaggio, praticamente. No, solo in un municipio, in uno c'è un confronto tra la candidata di Fratelli d'Italia e la candidata grillina. Per il resto hanno vinto, sono in vantaggio i grillini dappertutto. Per quanto riguarda il voto moderato che potrebbe andare su Giachetti, il voto moderato a Roma si è rivelato, l'altro è un'espressione assurda, cioè il voto moderato, si è rivelato praticamente inesistente. Martini ha fatto l'errore di non per l'ultima volta cercare di costruirlo, cioè era partito con una con una opzione civica, esatto, che poteva avere il suo senso. Fuori dai partiti, aveva coperto Roma di manifesti. Un civismo politico. Poteva essere un esperimento. Un esperimento che è fallito con l'abbraccio di Berlusconi. Con Berlusconi. E lì c'è stata proprio un Berlusconi che si è venduto una Forza Italia al 15%, quando poi abbiamo visto che Forza Italia a Roma ha il 4%. Il 4%, quindi, insomma, io credo che adesso non resti seguire un po' questo tentativo di recupero di Giachetti. Io non voglio dire che la partita sia finita, però, perché siamo abituati a grandissimi recuperi. Ora non mi ricordo bene le percentuali, ma ricordo che Guazzaloca a Bologna fece l'ira di Dio. Nel suo piccolo Alemanno, che era dietro di 5 punti rispetto a Rutelli nel 2008, poi lo superò. Il sindaco Scalzo di Messina, mm-hmm, era dietro quasi di 20 punti. Esattamente, sì, sì. All'uomo di Genovese, cioè del RAS, del PD, del voto controllato, arrestato, per così dire. Comunque, il problema è capire quali saranno le chiavi giocate per mobilitare l'elettorato. Ricordiamo anche che il 19 giugno è una data un po' avanzata, bisogna vedere questo che effetti avrà sulla partecipazione. Torniamo tra un minuto con i nostri due ospiti, Mario Aiello e Riccardo Ruggeri. La versione di Oscar. Allora, eccoci tornati con i nostri due ospiti, Mario Aiello, giornalista del Messaggero, Riccardo Ruggeri, imprenditore, consulente, ex manager Fiat. Riccardo Ruggeri vi ha dato una chiave su Torino, cioè il Partito della Nazione contro antisistema, e quindi di qui il successo dell'Appendino, che è andata meglio e che incalzerà nel ballottaggio Fassino, l'usato sicuro per così dire, che però è andato significativamente peggio, come Merola a Bologna, delle attese. Mario Aiello, giornalista del Messaggero, ci riporta sul fatto che Roma è evidentemente figlia di mafia capitale e dice non è chiusa, però certo sarà molto difficile per Giachetti arrivare a una vittoria, e la vittoria dei 5 Stelle a Roma è un dato clamorosissimo nelle periferie, non solo nella sua cifra globale cittadina, perché stravolge una storia che andava avanti da decenni, quindi ha un significato profondo, non è qualcosa di solo effimero, per così dire. Poi sai, effimero, 5 Stelle sono anni e anni e anni oramai che di volta in volta gradua la sua avanzata. Sentiamo un ascoltatore prima di tornare ai nostri ospiti, Paolo, che ci chiama dalla provincia di Milano. Prego Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. No, volevo semplicemente far notare che il Movimento 5 Stelle ha un risultato ancora più eclatante se noi lo valutiamo col discorso che tutti gli altri partiti e tutte le altre liste si sono presentate accorpate. Sì. Per cui anche se noi dovessimo andare a levare quelle liste civetta con magari l'1%, il 2% e via dicendo, troviamo che praticamente troviamo il Movimento 5 Stelle che veramente ha fatto un salto in avanti. In una città come Roma va anche tenuto presente che molta della gente che vota i soliti partiti è gente che ha poi degli interessi. No, l'ha detto anche Mario Aiello, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo presentato il libro, che purtroppo le connivenze nel mondo privato come la società civile del sistema di Roma sono il fatto storicamente purtroppo più rilevante, di là delle ruberie della pubblica amministrazione e della partita. È vero quello che dice Paolo, perché se andate a vedere la struttura del voto è una struttura che grazie alle liste civiche collegate maschera i risultati dei partiti. Tra l'altro ricordo a chi ascolta che il Movimento 5 Stelle è diventato primo partito anche nella mia Torino, battendo il PD. Sfiorano entrambi il 30%, ma il Movimento 5 Stelle a Torino ha preso più voti del PD, e anche questo rispetto a Roma è ancora più eclatante, per così dire. Enzo, che ci chiama da Carbonia. Prego Enzo. Sì, io parlo da Carbonia, una delle città più devastate dalla crisi economica, essendo questo territorio chiuso le industrie metallurgiche, quindi 10.000 persone a spasso. E quindi le amministrazioni comunali vengono, come possiamo dire, ammazzate dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle, che anche qui nella mia città addirittura va al ballottaggio col sindaco del centro-sinistra. Perché dice ammazzata? Ammazzata nel senso che specula su tutte le situazioni disastrose che ci sono, che chiaramente non dipendono dal sindaco di Carbonia, dal sindaco o dal presidente della giunta regionale, ma dipendono da politiche di carattere economico più importanti, per cui pensano di scaricare tutta questa insofferenza che c'è nel territorio, ipotizzando chissà quale soluzione. È venuto qui di Battista, per quanto riguarda il territorio cosa ha detto? Mica ha parlato che avrebbe trovato una soluzione ha parlato esclusivamente di tutte le cose che vanno male. E chi è che non è? È facile parlare, invece questa amministrazione che ha amministrato, questo sindaco di Carbonia, Giuseppe Casti, ha rimesso a posto le strade di questa città. Che già però Enzo, io sono d'accordo con quello che dici, perché figuriamoci, io non credo che sia tanto per i programmi che vengono scelti, l'abbiamo detto mille volte, a Roma quasi nessun candidato ha detto davvero che cosa farà per i disastri del bilancio delle partecipate. Il problema è che questo fenomeno di protesta e di discontinuità politica, sentito Riccardo Ruggeri come lo interpreta addirittura in chiave internazionale, è un fenomeno che politicamente c'è enorme, c'è in tutta Europa, è evidente, no? Nell'andamento delle elezioni. Allora il problema è che chi poi governa a livello nazionale deve tenerne conto, e tenerne conto, io dico, nello schema del o con me o contro di me, non è detto che paghi. Io credo che ci sia una riflessione da fare molto profonda per Renzi da questo punto di vista, e infatti questa è la mia ultima domanda ai nostri due ospiti: che cosa ti aspetti che Renzi faccia come ragionamento di correzione? Oggi ha annunciato il commissariamento a Napoli, il risultato particolarmente disastroso per il PD, ha anche detto che il PD in quasi tutta Italia è il 40%, cosa che non è classicamente vero, che è, da parte di Renzi è un errore clamoroso di mancanza di lucidità, però tu cosa ti aspetti, Riccardo Ruggeri, da parte del Premier? Io mi aspetto che lui continui nella sua scelta, perché lui ha fatto una scelta che personalmente condivido in pieno, è la scelta della chiarezza. Lui ha capito che ormai la votazione è già un referendum sulla sua persona. Avendolo così caricato di significati, lui non aveva alternativa e non ha alternativa, quindi è ovvio che questo ha sdoganato i 5 Stelle, perché sono quelli che al referendum potranno meglio di tutti gli altri consolidare tutte le altre posizioni contro di lui. Lui, cioè, ha scelto cioè uno tu dici che lui tutti. Avvalora anche con l'Italicum l'ipotesi che o me... A quel punto unica ipotesi ragionevole, cari italiani, oppure per così dire l'Armageddon, chiamatelo come volete, insomma il disastro dei 5 Stelle, per questo li predilige, tu pensi che sia questo il suo schema? Esattamente questo, e a Torino è l'esempio classico, perché ha sdoganato quel 31%, è fatto in gran parte di gente di sinistra, è gran gran parte di gente della media borghesia, che per la prima volta hanno avuto il coraggio di mettere la crocetta su un movimento stravagante certo, anche con alcuni aspetti programmatici, insomma no euro e così via, ma non solo no euro, insomma il reddito, quello a cui gli svizzeri hanno detto no, io preferisco il voto svizzero, il reddito uguale per tutti, secondo me può sostituire le altre forme di welfare, ma non si può aggiungere. Ma detto tutto questo, quindi l'interpretazione di Carlo Ruggeri è Renzi continuerà. Mario Aiello, che ti aspetti? Perché c'è, la destra però c'è, se riesce a unirsi, tu che pensi, Mario? Ma io penso innanzitutto che lui sbagli a credere che lo strumento partito non sia importante e sia molto più importante lo strumento leader, nel senso che non abbiamo ancora trovato altri mezzi per vincere le elezioni nelle città e per poi governarle che non siano quindi, quindi con questa scelta si esporrà un rischio. Purtroppo devo farti chiudere perché il tempo è finito, mi dispiace per Mario Aiello, grazie a Mario Aiello e a Riccardo Ruggeri, continuate su Radio 24, appuntamento all'8:15 domani mattina con me, Alessandro Milan.